America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La settimana scorsa abbiamo visto un po' come il movimento dei Tea Parties ha cercato di portarsi al centro. Lo abbiamo visto da un punto di vista macro. Oggi vi parlo di un candidato cubano che ha vinto il suo seggio anche grazie ai Tea Parties, Marco Rubio. Puerto Rico, my heart's devotion. Marco Rubio è un po' il simbolo dell'arrivo in America da figlio di immigrati e dell'arrivo poi al grande successo, al sogno americano. Giovanissimo, perché appena 39 anni, è riuscito a vincere, pensate, la candidatura per il seggio senatoriale della Florida contro il governatore uscente, e cioè contro Crist, il quale si è dovuto ritirare e ora andrà a correre come indipendente. Ho incontrato Rubio a New York, devo dire è stato un incontro molto interessante, perché c'è stato uno spicchio di questa America che sembra divisa sotto molti punti di vista, anche all'interno di stesse coalizioni, anche all'interno di uno stesso partito come quello repubblicano, ma che poi alla fine si riunisce. L'incontro con Rubio è avvenuto in una sala di ricevimenti a porte chiuse, pochissima gente, tutti i sostenitori repubblicani sulla 71 fra la Quinta e la Madison. C'era anche il presidente del Partito Repubblicano dello Stato di New York, che sosteneva un candidato che poi ha perso contro un candidato dei Tea Parties, il famoso ormai Carl Palladino, e dunque anche Cox è venuto a baciare, diciamo così, la pantofola di un altro vittorioso dei Tea Parties, di Marco Rubio. Ma Cox non è soltanto un funzionario di partito, è anche un simbolo. E dunque ecco il primo aspetto che mi ha colpito dell'incontro con Rubio. Vediamo chi è Cox. Ed Newman and I did it, I think. It was the only time that I remember. Ce lo spiega Barbara Walters, una delle più grandi star della televisione americana, quando rievoca la copertura che fece nel 1971 del matrimonio di Patricia Nixon, la figlia del presidente Nixon, con appunto Ed Cox, un giovane di una importantissima e ricchissima famiglia newyorkese. E sentiamo in questo vecchio nastro che ho recuperato, dove c'erano le registrazioni delle conversazioni di Nixon, la voce del presidente. Iran, with regard to that television show, let me say how I want you to handle it. Avete sentito la voce del presidente Nixon registrata in quei famosi nastri che poi furono oggetto dello scandalo Watergate. Il presidente dà istruzioni molto precise al suo aiuto di campo, gli dice intanto di sentire una certa persona, poi gli dice di vedere il filmato, infine gli dice di attaccare, di usare Barbara Walters, di contattarla perché ha colpito sotto la cintura e dunque in qualche modo va redarguita. Mi ha colpito, dicevo, il fatto che in questa stanza ci fosse questa continuità. Da una parte Marco Rubio, la nuova star giovane del partito Tea Party, immigrato cubano, dall'altra Ed Cox, storico presidente del Partito Repubblicano a New York, direi un pezzo importante dell'establishment repubblicano americano. E veniamo alla connection cubana, altro aspetto di establishment. Chi è stato uno dei sostenitori della primissima ora di Marco Rubio già l'anno scorso, quando ancora non era conosciuto, quando ancora non si era gettato nel movimento Tea Party, che poi era appena nascente in quel momento? È stato Pepe Fanjul, un miliardario cubano scappato, o meglio la sua famiglia scappò ai tempi del regime di Batista, subito prima della rivoluzione di Castro, si rifugiò in America, e lui e il fratello sono fra i più grandi produttori di zucchero in America. Controversi perché alcuni li accusano di aver inquinato gli Everglades, una delle zone più belle della Florida, dove appunto ci sono coltivazioni di canne da zucchero, e di essere molto conservatori. Ebbene, Fanjul è l'ospite di questo incontro a cui sono potuto andare qui a New York, e il suo collegamento ci dice una cosa molto chiara, e cioè che per quanto Marco Rubio abbia cavalcato la sua vittoria alle primarie sull'onda anche del Tea Party, e così cavalcando una posizione contro Washington, contro l'establishment, In realtà alla fine se andrà a Washington, secondo me, e ci andrà tra l'altro perché è sicuramente oggi il candidato favorito, ebbene quando ci arriverà sarà un candidato molto più moderato di quello che possiamo immaginare oggi, e di questo me ne sono accorto anche dalla chiacchierata che ho fatto con lui. We've had bad administrations, bad leadership and bad decisions before. Qui Marco Rubio attacca Barack Obama, un attacco che va benissimo a tutto il Partito Repubblicano, che ricordiamolo è sempre stato compatto nel votare contro qualunque iniziativa dell'amministrazione negli ultimi 2 anni. Dice che l'amministrazione ha messo a rischio e sta mettendo a rischio l'eccezionalismo americano con una gestione catastrofica del paese. Siamo in pericolo, dice Rubio, e dunque queste elezioni di novembre diventano un referendum molto chiaro. Vogliamo rimanere noi stessi o vogliamo diventare come tutti gli altri? Beh, direi dichiarazioni che vanno bene a qualunque repubblicano, anche centrista. Sentiamola ancora. We should scrap that entire bill and replace it with better ideas that help us create a vibrant private market where individuals can purchase health insurance. Qui Rubio parla di riforma sanitaria, l'attacca, la critica, dice che dobbiamo cancellarla, però attenzione, dice anche che dobbiamo sostituirla, rimpiazzarla con idee migliori, offrendo agli americani la possibilità di avere forse maggiore libertà nei piani di sottoscrizione. Dunque è contrario al piano di Obama, ma non è contrario necessariamente alla riforma sanitaria, che inevitabilmente prevede un ruolo importante per Washington. I think we have to arrive at what our ultimate goal is, and our ultimate goal is to have a legal immigration program that works for America. E qui l'immigrazione, i Tea Parties, come sapete, sono contrari agli eccessi di immigrazione, vogliono chiudere i confini, vogliono recuperare la vecchia, vera radice tradizionale americana. Bene, Rubio è un immigrato anche lui, viene da Cuba e dice un sistema di immigrazione legale è importantissimo per il nostro futuro economico perché abbiamo bisogno di mano d'opera nel settore agricolo. Dunque, probabilmente Rubio sarà un alleato di Obama nel momento in cui l'anno prossimo si dovrà definire una nuova legislazione sull'immigrazione. Un incontro, devo dire, per me rivelatore, questo che ho potuto fare qui a New York con un candidato della Florida, perché mi ha dato la misura di quanto il Partito Repubblicano stia serrando i ranghi e lo sta facendo al di là delle generazioni. Aggiungo un altro dettaglio: il figlio di Ed Cox, Chris, 31 anni, nipote del presidente Nixon, corre per una delle circoscrizioni di New York per diventare deputato. Il cerchio dunque si chiude. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Gli Animal Collective e l'azienda di abbigliamento Keep hanno creato, pensate, una nuova linea di scarpe insieme, e dunque ogni paio di scarpe sarà abbinato a un CD di canzoni che non sono ancora state pubblicate. Dietro questo c'è una iniziativa benefica, perché i proventi di questa iniziativa andranno alla Socorro Island Conservation Fund, un'organizzazione che si occupa della salvaguardia della biosfera al largo della costa californiana. E dunque degli Animal Collective sentiamo, per un'azione filantropica, Summertime Clothes. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.